Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Stiamo cercando di riniziare, di partire dalle fondamenta. Stiamo ricostruendoci in una vita, perché qui c'è la possibilità. Il tempo scorre, cioè io mi accorgo che ho quasi 40 anni. Lo so, può sembrare pure un po' strana come cosa, ma il tempo passa. Perché io devo stare qui ad aspettare? Me ne va. Andare all'estero arriva da una sorta di disagio, di disaffezione per tutto il sistema Italia. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Davvero suggestivo il trailer di Ciao Italia, il documentario di Barbara Bernardi e Fausto Caviglia che racconta le storie di sei nuovi emigranti a Berlino. Con queste voci e queste sonorità ripartiamo per la quarta stagione di Giovani Talenti. Ben ritrovati. Siamo pronti a ricominciare subito con una novità, la frase della settimana che aprirà molte delle prossime puntate. La prima è del premier Mario Monti che ha dichiarato: i giovani rappresentano una componente del paese sottoutilizzata e demoralizzata. Per Monti, i giovani non vogliono sottostare a un sistema che premia ancora molto le raccomandazioni piuttosto che il merito. La raccomandazione, dice, costituisce una delle principali cause della fuga dei cervelli. Tante novità dunque, ma anche sorprese. Per iniziare, da qui a inizio ottobre, quattro storie di giovani eccellenze italiane all'estero. La prima arriva da oltre i Pirenei. Siete pronti? Ripartiamo. Io forse ebbi la fortuna di trovarmi al posto giusto nel momento giusto e vidi, capì il grande potenziale che c'era dietro l'idea di creare un nuovo spazio per il lavoro, uno spazio innovativo, uno spazio diverso. Lorenzo Di Pietro, 39 anni, è direttore dei servizi per il lavoro del comune di Barcellona in Spagna. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario con il meglio delle news estive. È un quadro impietoso quello che emerge da un'indagine dell'istituto Toniolo Ipsos sugli under 30. Quasi il 50% dei giovani si dichiara pronto ad andare all'estero per migliorare le proprie opportunità di lavoro. I più propensi a muoversi vivono al nord, tendenzialmente uomini. Laureati più disposti a trasferirsi per inseguire migliori opportunità professionali. Tra chi ha un lavoro in Italia solo il 20% è pienamente soddisfatto dell'attuale impiego. Il 47% si adatta a svolgere un'attività incoerente con il proprio percorso di studi e non solo. Un giovane su due si adeguerebbe a un salario sensibilmente più basso. Alle aspettative. Purtroppo ben 4 giovani su 10 puntano ancora sulle conoscenze familiari per trovare impiego. Nota positiva, il 45% non si rassegna e cerca di reagire mettendo in campo nuove strategie per fronteggiare la crisi. Crollano intanto gli under 35 occupati. Secondo l'Istat, nel secondo trimestre 2012 sono diminuiti di quasi 1,5 milioni di unità rispetto a 5 anni fa, meno 20%. Sempre per l'Istat, tra gli under 35 ci sono quasi 1,4 milioni di disoccupati, più della metà del totale nazionale. Nel 2012 solo il 14,5% sul totale delle assunzioni sarà rivolto a laureati, si tratta di almeno 2 punti in più rispetto al 2011, lo afferma il sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro. Australia, a great place for families. Opportunity for you, fine for your wife. Great for your children. Dal 2006 al 2011 il numero di italiani giunti in Australia con visti di lavoro da 1 a 4 anni è aumentato di circa l'80%. Bye bye Italy, dall'austerità all'Australia, inchiesta sui nuovi arrivi italiani in Australia. La radio pubblica SBS ha puntato quest'estate i fari sulla fuga dei talenti dall'Italia verso l'Oceania in un'inchiesta condotta dalla giornalista Marina Freri, già ospite di Giovani Talenti. Sempre a proposito di Oceania, il governo australiano introdurrà un nuovo visto lavorativo, il Post Study Work Visa, che permetterà agli studenti internazionali che hanno completato un corso universitario nel paese di potervi lavorare tra i 2 e i 4 anni. Iniziativa senza precedenti di Alma Laurea, che ha messo gratuitamente a disposizione delle imprese che operano in Germania la propria banca dati, 1.670.000 curricula aggiornati di neolaureati, laureati con esperienza e diplomati italiani, oltre 6.000 le aziende tedesche contattate. Proprio l'Agenzia Federale per il Lavoro tedesca ha segnalato che tra il 2009 e il 2011 l'incremento di lavoratori italiani in Germania è stato del 6,3%, quanto i greci. E non è forse un caso che in Germania gli under 30 al lavoro siano 8 milioni e 135 mila, in Italia appena 3 milioni e 200 mila, in Germania i giovani inattivi il 36,7%, in Italia il 57,6%, lo afferma il Corriere della Sera. E mentre l'Italia combatte con un alto tasso di inattività tra i giovani, il quinto più alto tra i paesi OCSE, nel bel paese avere in tasca una laurea non rende più facile trovare un lavoro. Lo denuncia l'ultimo rapporto OCSE, il tasso di occupazione è sceso in 8 anni al 78,3% per i laureati, mentre è rimasto stabile per i diplomati. Al contrario, negli altri paesi OCSE la disoccupazione è aumentata soprattutto tra i diplomati. Non solo, i dati sulle retribuzioni indicano che gli under 35 laureati italiani guadagnano solo il 9% in più rispetto ai diplomati. Infine, la percentuale di laureati italiani resta tra le più basse. solo il 15% degli adulti contro una media internazionale del 31%. Ma quale lavoro trovano i neodottori? Ben uno su quattro in Italia ottiene un posto non all'altezza del proprio curriculum. Lo rivela un'indagine data giovani per il Sole 24 Ore. La quota è doppia rispetto ai diplomati. Le aree più colpite da questo divario di qualificazione sono Nord-Est e Centro Italia, dove la quota di laureati sovraistruiti supera il 30%, penalizzati soprattutto i dottori nelle discipline umanistiche e scienze sociali, più le donne degli uomini. E rimarrà aperta fino al prossimo sabato alla Emerson Gallery del MIT di Berlino la mostra d'arte contemporanea dedicata al Made in Italy. Buongiorno e arrivederci, titolo esplicativo della condizione degli artisti nel bel paese, spesso ignorati in patria e valorizzati all'estero. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta a Barcellona, città simbolo della nuova emigrazione italiana nell'ultimo decennio. Nome: Lorenzo. Cognome: Di Pietro. Età: 39 anni. Città di origine: Roma. Studi: laurea in economia e commercio. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2000. Per andare dove? Barcellona. Perché? Per studiare. Quale lavoro svolge attualmente? Direttore del Dipartimento del Lavoro. Dove? Al Comune di Barcellona. Tornerai? Non lo so. Corren fuerte viento de tormenta, como no vivo del aire, me estoy dando rienda suelta, no se lo cuentes a nadie. E stop a Vientos de Tormenta per introdurre la tua storia, Lorenzo, che iniziamo con una frase significativa, detta da te. Giovani, capitale umano del futuro. Così Lorenzo scrivi in uno degli appunti che ha inviato a giovanitalenti@radio24.it. Con te e con l'attualissimo binomio Giovani Lavoro riparte questa nuova stagione di Giovani Talenti. Abbiamo scelto questo spunto per iniziare, perché il capitale umano dei giovani in tempi di crisi è la chiave di volta per vincere le sfide del futuro, e le nostre cosiddette elites, soprattutto in Italia, lo hanno capito? Io direi, Sergio, che in tempi di crisi, ma anche in tempi di bonanza, credo che l'energia, la spontaneità del giovane è un valore estremamente positivo, ci aiuta a vedere la realtà in modo diverso, a volte in modo inedito, e questa visione alternativa io credo che è alla base del cambio, dell'innovazione. A volte in Italia si ha la sensazione che il potere si concentri nelle mani dei meno giovani, forse il problema è che questa dialettica tra esperienza e spontaneità potrebbe, dovrebbe essere più costruttiva e meno antitetica. Partiamo dal tuo percorso formativo. Negli anni 90 scegli l'Università La Sapienza di Roma, facoltà di economia e commercio. Perché? In realtà non sapevo bene a che cosa mi sarei voluto dedicare, e pensavo che questi studi, questa laurea mi avrebbe aperto strade. C'è stato nel tuo percorso di studio universitario un primo contatto con la formazione e il lavoro all'estero? Con la formazione si fece un programma Erasmus e fu un'esperienza veramente molto, molto interessante, molto ricca. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. La svolta nella tua carriera arriva con un master sponsorizzato da un grande istituto bancario, master in politiche pubbliche e sociali all'Università Pompeu Fabra. Te ne vai a Barcellona. Perché questa specializzazione e soprattutto perché scegli la capitale catalana? Scelsi questa specializzazione per la dimensione internazionale che aveva questo master, i contenuti, i compagni, i professori, e Barcellona perché il master era un master rinomato, ma soprattutto perché la mia ragazza, che adesso è mia moglie, è di Barcellona. Qual è stato l'impatto con la città catalana? Erano gli anni del cambio del millennio, gli anni post-olimpici, anni di una Barcellona effervescente, ben ritratta dal film simbolo L'appartamento spagnolo, di cui stiamo ascoltando ora la colonna sonora. Cosa vi cercavano? Cosa vi trovavano? A differenza delle nostre città e del nostro paese, sempre più stanco, le migliaia di giovani connazionali che la presero d'assalto. Ma forse i giovani erano attratti da questa sensazione di maggiore libertà, di maggiore informalità che trasmette una città come Barcellona. In una città come Barcellona tutto sembra più facile a volte. E a livello universitario, qual è stata la maggiore differenza che hai riscontrato tra l'Ateneo catalano e quello italiano, in termini di insegnamento, contatto col mondo del lavoro? La cosa diversa forse da che io avevo le mail dei professori, parlavo con loro, davo loro del tu, l'organizzazione del master era costantemente preoccupata affinché ogni alunno avesse il suo stage lavorativo, a volte quasi mi sembrava di essere tornato al liceo, no, per il tipo di rapporto con la struttura. Rapporto molto diretto e anche informale. Capitale umano è la chiave di volta della puntata di oggi, infatti tu dedichi tanto tempo alla formazione, ma il vero cambio nella tua vita arriva nel 2002 quando entri in Barcellona Activa. Come? Per curriculum e competenze oppure bisognava conoscere qualcuno? Io conoscevo la presidentessa, ma l'avevo conosciuta in classe, nel master, è stata professoressa del master, e le chiesi se potevo fare lo stage lì con lei, nella sua struttura. Così nacque l'incontro. E di cosa ti sei occupato a Barcellona Activa? All'inizio portavo dei programmi europei, mi occupavo di programmi europei, poi poco a poco entrai nello staff che dava supporto alla direzione e facevamo un po' di tutto. E successivamente passi all'associazione PLA Strategic Metropolità, dove dirigi gruppi di studio che analizzano il contesto economico e il mercato del lavoro nell'area metropolitana, prima e poi di rientrare nel 2002 a Barcellona Activa. È lì che nasce il progetto Porta 22. Allora, raccontaci come si propone un progetto all'estero. Un progetto delle dimensioni di Porta 22 non nasce mai per iniziativa di una sola persona. Eravamo molti a pensare, molti a studiare modelli, realtà straniere, internazionali. Ci ispiriamo molto in un modello francese che si chiama Cité des Métiers. In Italia c'è qualche esempio. Io forse ebbi la fortuna di trovarmi al posto giusto nel momento giusto. Vidi, capii il grande potenziale che c'era dietro l'idea di creare un nuovo spazio per il lavoro, uno spazio innovativo, uno spazio diverso, soprattutto poi alla fine di una legislatura municipale, e quindi iniziai a dedicarmi al 100% nel progetto. Ci spieghi brevemente il concetto alla base di Porta 22, perché è molto importante. È uno spazio pubblico dedicato ai temi del lavoro, e a Porta 22 offriamo servizi utili per tutta la vita professionale di una persona, dal giovane che deve decidere che cosa vuole studiare fino al disoccupato che deve reinventarsi. Allora, fermiamoci un attimo, Lorenzo. A 29 anni, tu, italiano non raccomandato perché l'hai detto tu stesso, hai chiesto di fare uno stage, ricevi dalla seconda città spagnola, in quegli anni calamita dei giovani di mezza Europa, l'incarico di sviluppare uno dei più innovativi progetti di orientamento professionale. Allora, in tutta onestà, una cosa del genere te la saresti immaginata in una nostra città italiana? No. In tutta onestà, Sergio, no, non me la sarei mai immaginata, ma in tutta onestà neanche a Barcellona. Matching scientifico per collegare domanda e offerta, migliaia di corsi di formazione ad altissimo livello e un progetto di vita professionale. Ci spieghi più in dettaglio i segreti del successo di Porta 22? Il segreto del successo è l'idea di fondo, far sì che domanda ed offerta si incontrino e si incontrino bene. Ma questo non è un segreto, in realtà è un'idea semplice, quasi ovvia. Io credo che il vero elemento forte del progetto è l'equipe umano che abbiamo messo su in questi anni e che ha saputo realmente interpretare ed applicare quest'idea. Nel frattempo hai completato la tua formazione manageriale alla IESE Business School, dal 2010 sei responsabile del sito web di lavoro Barcellona Treball, 1 milione di visite l'anno. E subito un consiglio: Barcellona è ancora un porto franco dove trovare il giusto mix tra un buon lavoro e una vita sociale frizzante, quel mix di ingredienti che l'ha resa un punto di riferimento negli anni 2000 in Europa. Sergio, ora la situazione è difficile anche qui. Trovare addirittura un buon lavoro nel 2012 a Barcellona per un giovane è statisticamente più difficile che trovarlo a Roma. La crisi è arrivata e ha colpito duramente anche Barcellona. Però, ecco Lorenzo, al di là della crisi attuale, c'era secondo te in quegli anni a Barcellona un concetto di meritocrazia, di valorizzazione dei giovani, anche se stranieri come il tuo caso, di un salario giusto, che davano soddisfazione a giovani in fuga da un paese statico come il nostro? Sì, assolutamente sì, Sergio, e io credo che questa filosofia è ancora viva qui a Barcellona. Meno male. Il problema è che mancano le opportunità reali per metterla in pratica. E speriamo torni quando torneranno anche queste opportunità. Lorenzo, in Italia la disoccupazione giovanile supera abbondantemente il 30%. I salari dei giovani e dei neolaureati sono troppo spesso ridicoli, i contratti incerti. Come guardi al tuo paese? Dove abbiamo sbagliato? Guardo all'Italia, guardo al mio paese con molto rispetto, Sergio. Forse quello che ci manca è un po' più di costanza, un po' più di perseveranza nelle cose, nei progetti, nelle iniziative, e a volte, mi permetto di dire, un po' più di umiltà. L'umiltà, hai centrato un punto fondamentale. Una curiosità, Lorenzo, ma quando avevi incontri di lavoro in Italia come ti guardavano? Avevano davanti un trentenne in una posizione elevatissima e qui siamo un paese di vecchi. Mi guardavano con curiosità, con molta curiosità. Domanda di rito, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va, cosa cambieresti e come? Guardo con molto rispetto al nostro paese. Forse a volte penso che il cittadino italiano non è abbastanza esigente nei confronti dei suoi politici e dei suoi amministratori. Questo credo che sia un elemento chiave, quello della maggior vicinanza tra politica e cittadinanza. In Italia troppo spesso credo che continuiamo ad associare la politica al potere piuttosto che alla responsabilità. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Lorenzo Di Pietro, 39enne direttore del Centro per l'Impiego Porta 22 a Barcellona in Spagna. Lorenzo giunge in Catalogna dopo una laurea in Economia e Commercio. A Barcellona completa due master, iniziando un percorso all'interno dell'agenzia Barcellona Activa, dove lancia l'idea del progetto Porta 22, un innovativo centro per il lavoro in grado di valorizzare il profilo e le competenze dei candidati. Un modello esportato con successo al di fuori della città catalana, Barcellona, dove Lorenzo ha creato anche il portale di impiego Barcellona Trabalho. Un vero talento con tante idee innovative utili a migliorare le opportunità di impiego. Lorenzo, prestato però, diciamo così, dall'Italia alla Spagna. E ci raggiunge ora in linea Massimiliano Smeriglio, assessore per il lavoro e la formazione della provincia di Roma. Buongiorno. Buongiorno. Tra poco con lei parliamo di Porta Futuro, il progetto partito poco più di un anno fa su iniziativa della provincia di Roma. Prima però una considerazione. Non le fa un po' specie che idee innovative di un giovane italiano abbiano attecchito, trovato terreno fertile all'estero e siano state solo successivamente importate in Italia? È davvero un cliché dire che siamo un paese per vecchio o c'è del vero? No, non è un cliché, purtroppo è vero, siamo prevalentemente un paese per vecchi. Noi quando abbiamo cominciato a guardarci intorno sulle esperienze migliori e più innovative d'Europa abbiamo scoperto Barcellona e Porta 22, e a Porta 22 abbiamo incontrato un cittadino romano di Monteverde, Lorenzo Di Pietro, che per noi è stato indispensabile per la costruzione di Porta Futuro a Roma. Questo suffraga un'altra teoria, che è importante riconnettersi con questi talenti all'estero, giusto assessore? Non c'è dubbio, anche per superare un po' una visione provinciale. Io penso che i talenti devono avere a che fare con la mobilità, conoscere il mondo globale e poi contribuire alla crescita del proprio paese. Lo facessimo più spesso, ne guadagneremmo solamente. Cos'è Porta Futuro, assessore? In cosa si differenzia da un normale centro per l'impiego e a chi si rivolge? Si rivolge alle persone dai 14 anni agli over 40. Ha messo in campo come Porta 22 un software, una modalità di matching della domanda offerta che purtroppo non esiste nei normali centri per l'impiego, e l'ha fatto utilizzando un rapporto virtuoso col sistema camerale, con la Camera di Commercio, e i dati sono confortanti. Quel lavoro che abbiamo fatto in questo anno a Roma non ha paragoni in Italia, neanche nelle esperienze romane precedenti. Andiamo sui risultati in concreto, ci può dare qualche, snocciolare qualche dato? Circa 100 imprese che hanno deciso di lavorare con noi nei Career Day, 17.000 contatti, 9.000 persone prese in carico, e il dato più importante è che il 33.4% delle persone dopo 3-6 mesi hanno trovato lavoro. Forse Porta Futuro porta anche un po' fortuna, forse individuiamo anche i ragazzi più dinamici, più proattivi, o forse anche che questo modello funziona più dei centri per l'impiego. E c'è un altro punto importante, cioè la qualità di questi lavori. L'OCSE lo dice, alla fine i nostri laureati si rassegnano spesso a fare lavori sottodimensionati rispetto alle loro potenzialità. Emergono buoni lavori per giovani qualificati, degnamente pagati e con prospettive chiare? Guardi, noi lavoriamo sul sistema della congruità, perché pensiamo che l'investimento che ha fatto il paese o la persona sulla propria formazione è appunto un capitale sociale importantissimo, e quindi cerchiamo, l'abbiamo fatto con NTV, con la Bosch, con la Nokia Siemens, con un sacco di grandi imprese, di cercare il matching migliore, il miglior rapporto tra domanda e offerta. Lorenzo, hai una domanda per l'assessore Smeriglio? Sì, assessore, il caso che avete risolto a Porta Futuro e che lei ricorda con maggior soddisfazione? A me ha colpito molto l'esperienza che abbiamo fatto con l'alta velocità privata, che all'inizio il management di quell'azienda aveva grande difficoltà e diffidenza a rapportarsi col sistema pubblico. Abbiamo costruito un rapporto virtuoso facendo un mix importante tra formazione, politiche attive del lavoro, reclutamento. Alla fine la soddisfazione loro, nostra e dei 1.000 ragazzi che sono andati a buon fine, penso che è un risultato importante per la città di Roma. Assessore, il presidente della provincia di Roma, Nicola Zingaretti, in occasione del recente Career Day, che ha festeggiato il primo anno di vita di Porta Futuro, ha dichiarato: vogliamo proporre un modello in cui finisce l'intermediazione devastante e clientelare della politica, un modello in cui ritorna in campo il merito. Assessore, quanto questo modello clientelare, fatto di raccomandazioni, scambi di favore, ha obbligato i migliori giovani, gli outsider, chiamiamoli così, e i più innovativi a lasciare il paese, condannando di fatto l'Italia al declino? Purtroppo conta molto. Se pensiamo che soltanto l'8-10% delle transazioni al lavoro avvengono tra sistema pubblico e agenzie di somministrazione, che il 90-92% avviene fuori, in quel 90-92% c'è molto di familismo, di clientelismo, di questioni appunto arcaiche che attraversano il nostro paese. Porta Futuro dimostra che il pubblico può costruire una piattaforma a disposizione dei ragazzi e delle imprese, ma alla fine sono le imprese che scelgono, perché le imprese investono sulla persona e devono fare il migliore investimento possibile. Grazie a Massimiliano Smeriglio, assessore per il lavoro e la formazione della provincia di Roma. E domanda di rito per Lorenzo Di Pietro: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Senza dubbio gli consigli italiani di applicare il metodo che usiamo qui a Porta 22, un metodo semplice ed intuitivo basato in tre passi. Primo passo, introspezione. Che cosa voglio fare? Che cosa voglio dedicarmi? Secondo passo, esplorazione del mercato. Che cosa stanno cercando le aziende? Terzo passo, fissazione dell'obiettivo professionale. In maniera realistica, a che cosa posso dedicarmi? Se questo obiettivo professionale è compatibile o addirittura è rafforzato dal soggiorno all'estero, allora gli direi, come dicono qui a Barcellona, andavan, ossia avanti, coraggio. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo. Economisti specializzati nella macroarea mercato del lavoro li cerca la sede parigina dell'OCSE. Scadenza per i CV 26 settembre, info su oecd.org. Un ingegnere per il supporto tecnico ad Aker Solutions nella sede norvegese di Stavanger. Scadenza per i CV 23 settembre, info su akersolutions.com. E infine un professore associato in geologia strutturale all'Università di Copenaghen. Scadenza per i CV domani, info a q.dk. E siamo giunti ad Expats, il nuovo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi vi parliamo di un portale appena nato che aiuta i giovani italiani a trovare occasioni di lavoro all'estero. Ce ne parla Andrea Santini, fondatore di expaway.com. Expaway è un'agenzia di lavoro su internet, nasce dall'unione dei network con la ricerca di lavoro, dando la possibilità a chi cerca lavoro all'estero di trovare lavoro all'estero, da parte delle aziende di trovare persone o specializzate oppure con esperienza internazionale utilizzando tutto questo i network stesse. Di fatto cerca di portare i nostri giovani talenti in difficoltà all'estero o di riportarli indietro se si riesce a riavviare in qualche modo un processo di riconnessione. Esatto, questa è poi la seconda parte. Dopo che abbiamo trovato talenti, li abbiamo portati all'estero e abbiamo dato la possibilità di imparare, di crescere, li riportiamo in Italia dove possono riportare nel loro paese l'esperienza che hanno maturato. I tempi sono maturi per questo processo di riconnessione? I tempi sono maturi per andare all'estero e imparare. Per il ritorno, onestamente, non sono ancora maturi, lo saranno tra qualche anno. Questo è il motivo per il quale abbiamo diviso il nostro progetto in due parti. Su quale tipo di profili opererete? Noi operiamo innanzitutto su profili legati al mondo dei servizi, di internet, programmatori, esperti marketing, country manager, quindi tutto quello che rientra nell'ambito delle start-up o delle aziende interconsolidate. Profili giovani? Laureati? Profili giovani, laureati, ma anche profili con più esperienza, quindi che possono portare all'azienda estere un'esperienza italiana. Questa voglia di fuga dall'Italia è un fenomeno che vedete in crescita? Chi fugge? Sì, un fenomeno sicuramente in crescita, vediamo giovani professionisti ma anche laureati, quindi persone che non riescono a trovare in Italia riconoscimento alle proprie competenze o anche la possibilità di vedere riconosciuti la propria voglia di crescere, di applicarsi in progetti. Immagino che le aziende straniere non vedano l'ora di avere questi talenti qualificati. Esatto, perché comunque è riconosciuto internazionalmente la competenza dei profili soprattutto italiani per quanto riguarda la creatività, anche le competenze specifiche. Quindi c'è una grandissima richiesta da parte dell'azienda straniera. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.expaway.com. Un motivo per restare. Tornare. Da questa puntata chiudiamo il programma con una nota positiva. In aiuto delle università del sud stanno arrivando i messaggeri, ricercatori italiani all'estero pronti a condividere tecniche e conoscenza. Il progetto, elaborato dai ministeri della coesione e della ricerca, durerà 3 anni per un costo di 5,3 milioni. Tre le fasi. Nella prima, 100 ricercatori all'estero terranno un ciclo di lezioni a gruppi di studenti degli Atenei meridionali. Tra questi studenti verranno selezionati alcuni ambasciatori che faranno uno stage nella struttura del ricercatore. Una volta rientrati, organizzeranno progetti d'intesa con il messaggero per contaminare il proprio ateneo. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.sole24ore.com/blog/nava. Ritorna pure lo spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di settembre è: creare canali privilegiati di rientro tra aziende italiane e giovani talenti all'estero può costituire un primo passo per rendere il nostro paese attrattivo e modernizzarlo in una win-win situation? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it.